Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine, ma andiamo con la sigla di apertura di questo programma. Bene, questa era la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, da Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30. Ricordo che questo programma viene così mandato avanti, se vogliamo dire in questa maniera, grazie al gruppo Contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Che altro dire? Oggi diretta come sempre, giovedì 6 marzo 2025, mandiamo ora all'ascolto di alcuni brani presi da una compilation datata 1987, era uscita a Manchester. Grazie ad una etichetta, e ovviamente era una compilation benefit appunto all'epoca, contro il gruppo Associazione di Sabotatori della Caccia, e, che è quella volta, vabbè, come tuttora esiste la Caccia alla Volpe, e all'interno di questa, comunque di questo, di questa compilation c'erano band del calibro di Rubella Ballet, Meccons, Electro Hippies, degli sconosciuti Ciambawamba e vabbè Conflict e altre band, comunque una quindicina di band all'interno. Noi iniziamo con Meccons, ascolteremo credo due brani così a inizio trasmissione, poi ci saranno i Black Mist. Change your underpants before you leave. Who said Liverpool? Così parlo sopra subito all'inizio di primo brano, così insomma questa fa parte della diretta. Non ho detto il titolo di questa compilation, che era Meatless Slaughter, e soprattutto che era benefit non contro l'associazione, ma era benefit per l'associazione e sabotatori contro la caccia. Ecco, così adesso tra un brano e l'altro approfitto per due correzioni, vabbè, che prima ho dimenticato di dire il titolo di questa compilation, che è Mindless Slaughter, e che ho detto che era benefit contro l'associazione dei sabotatori. No, invece è benefit ovviamente a sostegno di questa associazione che si chiama appunto Sabotatori della Caccia. Yeah. Sì, un saluto anche da parte mia in questo giovedì 6 di marzo. Si avvicina la data dell'8 marzo e così mi sento di dire qualche parola anche su questa data, e cioè specificamente diciamo ci associamo alla così allo spirito delle compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma, che in un loro volantino dicono 8 marzo 2025 danzare in una gabbia, no grazie. E difatti anche noi non ci garba di danzare in una gabbia, e casomai ci va invece di dedicare questo 8 marzo alla lotta contro tutte le gabbie. E ricordo che in Francia, nello specifico il Soccorso Rosso di Marsiglia, dedica l'8 marzo quest'anno a Nadia Desdemona Lioce, detenuta al 41 bis da 20 anni qui in Italia, all'Aquila. E poi ricordo anche che ci sarà l'8 marzo a Ponte Decimo, al carcere femminile, un presidio solidale con le detenute, e poi il giorno dopo, domenica 9 marzo, al carcere di Sanremo un presidio solidale e affettuoso per un saluto anche al compagno Stecco. E sempre rimanendo così in argomento di donne ribelli, donne che resistono e che lottano, e sempre così prendo spunto dal contributo sempre delle compagne della coordinamento femminista e lesbica di Roma, che hanno pubblicato appunto nel loro blog un contributo, un omaggio a Barbara Balzerani, che è mancata proprio un anno fa, il 4 marzo 2024. Barbara Balzerani viene definita cattiva ragazza. È interessante questo contributo della compagna Elisabetta, perché appunto è una sorta di dialogo tra una femminista, cioè una donna che si è sempre definita femminista e ha un percorso di femminismo molto articolato, e appunto Barbara Balzerani, che invece non si è mai definita femminista. E così questo dialogo insomma è interessante. Allora vi leggo ciò che scrive Elisabetta. Ci ho messo un po', un anno intero, per poter scrivere su Barbara. Un grande dolore lascia spaesate. Io sono femminista, Barbara no. Discutevamo spesso, e quando le facevo presente che capiva con grande chiarezza l'oppressione che ci scaricano addosso, lei mi diceva: non mi cucire etichette in cui non mi riconosco. Sì, è vero, non era femminista, ma aveva una sensibilità acuta e particolare riguardo all'oppressione delle donne, che veniva fuori nei suoi scritti e nei discorsi che facevamo insieme, in ogni momento, in ogni passo, sia che parlasse della sua storia familiare, e qui c'è una citazione da appunto da una memoria di Barbara. Prima gli uomini, sentenziava mia madre, riferendosi ai piatti da riempire. Difficile ogni volta non temere di rimanere senza nulla da mangiare. Così, tanto per abituarci, noi femmine, ad aspettare e non pretendere. O dell'esperienza di lavoro politico nelle borgate romane. Mi tornano alla mente le donne con cui, nei primi anni 70, ho condiviso quelle lotte che quasi sempre erano anche momenti di socializzazione, quando non di festa, specie nelle occupazioni dove il vivere insieme rompeva con la staticità del quotidiano di ciascuna e si poteva coltivare l'illusione che niente sarebbe tornato come prima. Quando arrivava il momento in cui tutto si concludeva, il primo bilancio che quelle donne facevano comprendeva sempre il dover fare i conti con l'imminente perdita di quel momento di sospensione del loro isolamento nelle quattro mura domestiche. E questo, poco e male, compariva nel giudizio politico circa il successo o meno della lotta appena conclusa, perché non toccava allo stesso modo tutti e tutte. Nonostante molto si dicesse circa il portare la rivoluzione fin dentro la testa e il cuore di ognuno. E continua Elisabetta, sia che Barbara ci raccontasse della sua lunga carcerazione. E Barbara raccontava: dicevate delle donne che ammazzano i mariti, anche quello è un aspetto particolare del carcere italiano. Sono poche e sono quelle che si beccano condanne terribili, cioè molto alte. A parte noi che eravamo le lungodegenti della situazione, quelle che venivano subito dopo erano loro. Come se appunto fosse uno dei delitti più gravi che una donna può commettere. Ed erano tutte donne, perlomeno quelle che ho conosciuto io, che erano arrivate in questo tipo di situazione per assoluta impossibilità di continuare in quella maniera. Se chiedevi, ma perché non hai divorziato? Ti guardavano come a dire, ma di che cazzo parli? Non avrebbero avuto mai il coraggio di lasciare il marito, ammazzarlo sì, ma lasciarlo no. E la cosa più incredibile è che dopo averlo fatto, in modi piuttosto cruenti devo dire, non gli avevano semplicemente tirato un foro in testa, con strumenti arcaici, in quel momento evidentemente la brocca ti parte. Donne veramente maltrattatissime, che quindi nel momento in cui decidono di fare una cosa del genere, la fanno con tutti i sentimenti, però il giorno dopo tornano ad essere le donne di prima. Questa era la cosa che mi incuriosiva. Come se ci fosse stato un piccolo episodio terribile, però loro non erano così di natura. Era che quel testa di minchia le aveva portate ad una esasperazione veramente impossibile da sopportare. Quello che era assolutamente evidente era che queste donne dai tribunali erano state massacrate. Le pene più alte che io abbia visto, poi sono arrivate le donne di mafia, ma molto dopo. E continua questo articolo della compagna della coordinamento femminista e lesbica di Roma. La storia della vita di Barbara Balzerani è esemplare. Mi hanno sempre colpito le vite di tante tanti compagne e compagni delle Brigate Rosse per la rispondenza tra percorso di vita e presa di coscienza politica. La famiglia proletaria, la madre operaia, la comprensione delle differenze sociali fin da piccola nella quotidianità della vita di tutti i giorni, gli studi in prima generazione, la fuga dal paese, la scoperta di Roma, la presa di coscienza politica lucida e consapevole, gli anni 70 bellissimi e totalizzanti, la speranza e la possibilità di costruire un altro mondo. Ho trovato nelle sue pagine e nella sua vita stralci della mia. Mi sono sentita raccontata dalle sue parole più di quanto io stessa potessi immaginare. Poi il carcere, la forza, il coraggio, la tenacia e la coerenza, la comprensione dei cambiamenti, senza mai perdere la lucidità politica. Barbara ci ha lasciato un patrimonio di pensieri su cui riflettere. Ha saputo sempre scegliere da che parte stare, cosa non affatto scontata anche per chi ha fatto scelte politiche importanti per un tratto della propria vita. Molti e molte si sono persi. Il suo ultimo libro, Respiro, è un testamento personale politico, l'intrecciarsi della sua malattia con il periodo pandemico, le scelte repressive dello Stato, le coercizioni e gli obblighi vaccinali, la divisione delle persone in soggetti di serie A e di serie B, la lotta contro il Green Pass, contro lo scientismo, contro il classismo spietato messo in atto dal potere. Tutto questo le è stato chiaro subito e ce lo ricordano le sue parole. Quel percorso di liberazione dove ancora trova rinnovato terreno di esercizio, riannoda i legami nelle comunità che la società mercantile non riesce a uniformare alla sua autodistruzione, con la pratica del sabotaggio a difesa della devastazione dei territori, per l'applicazione della legge del mare, per l'inventiva di forme societarie di buon vivere che aprano le gabbie della segregazione individualistica, perché le parole riprendano a dire l'inammissibile. Lì dove le competenze sappiano di sapere collettivo, a integrazione delle diverse conoscenze, dove non ci sia lavoro comandato, ma libera attività umana, dove l'esperienza pratica sia attestato di scuola di vita, dove la tradizione sia risorsa fuori dal tempo e permanga come fonte inesauribile di senso, dove possano ancora avere valore la mutualità e la gratuità, dove la piramide in cui la produzione digitale ha frammentato il lavoro e reso immateriale il vivere sociale mostri infine le sue crepe, dove l'antico gesto simbolico di sollevare il peso dalle spalle di chi non ce la fa riesca a risanare, dove la rotta verso l'isola che non c'è sia ancora immaginabile, dove lo Stato e i padroni scontino l'impotenza. Yeah. E continuando nella, così, nell'omaggio a Barbara, Elisabetta ci dice: dura quando era necessario, determinata quando bisognava esserlo, gentile, affettuosa, sensibile con chi amava, le persone care e gli oppressi tutti e tutte, a ricordarci che quando si intenderà superato il limite di ogni pazienza, quando ancora rimandare la pratica del conflitto necessario è possibile, quanto per decidere che il tempo sia scaduto. Dalla pandemia alla guerra, un abbinamento di paura e propaganda ha fatto stragi di morti e di verità. Elisabetta: a me piacciono le piante da fiore, a lei piacevano le piante grasse, ma come fanno a piacerti tanto? Le dicevo, io non riesco a entrarci in sintonia, sempre uguali a se stesse. Sì, mi diceva, ma sono solide e ferme, radicate a terra, sopportano vicissitudini e intemperie, come gli oppressi. Sono pronte a difendersi e a resistere, hanno le spine, ma poi in una sola notte spunta un fiore enorme, coloratissimo, nella sorpresa generale. E quel fiore spunterà di nuovo potente, dirompente, bellissimo, quando meno il potere se lo aspetterà. Barbara ora fa parte della storia, sarà impossibile dimenticarla anche per il potere, lo dice chiaramente il livore con cui ha reagito alla sua morte. Sarà sempre una spina nel loro fianco, lì a ricordare che sì, si può cambiare questo mondo, si può fare, ci riproveremo ancora, è solo questione di tempo. And they were surprised. One of them was surprised when he got kicked. I mean, understand it, no head wound. Sì, in questi giorni, specificamente martedì, è stato organizzato un presidio contro il CPR e contro anche la repressione sia delle rivolte dei prigionieri interni al CPR sia dei solidali a Gorizia davanti al tribunale. E insomma, mentre si così faceva gli interventi, si gridava, si disturbava un po' la quiete di questi soggetti, insomma, che stanno dietro queste finestre, dentro questi palazzi, così chiusi nei loro palazzi, appunto. E parlando di confini, di distruzione dei confini, della preziosità della libertà di movimento e di come in tutti i modi questa libertà venga ingabbiata, mi è venuto in mente un racconto, una pagina di un libro di un Blaise Cendrars, anzi scusate la pronuncia, che è in realtà è uno pseudonimo, non mi ricordo il nome reale, insomma questo scrittore, lui era svizzero e poi però naturalizzato francese, nato negli anni 80 del 1800 e morto nel 1961. Un soggetto un po' particolare, che appunto il libro si chiama Rapsodie Gitane, e lui era un tipo un po' particolare, si era arruolato nella Legione Straniera, per dire, quindi aveva fatto la Prima Guerra Mondiale, insomma, da volontario, però durante la Prima Guerra Mondiale in battaglia rimane ferito gravemente, gli viene amputato un braccio, il braccio destro, e quindi lui scrive anche un libro, Il Monco, proprio parlando di questa sua esperienza, e fa comunque del girovagare, diciamo, diceva che aveva il demone del viaggio e amava girovagare così, e va un po' in tutto, da tantissime parti. E compreso si aggrega, diciamo, a delle tribù di gitani a Parigi, ma perché un gitano, appunto, Savo, era stato zingaro, era stato in guerra con lui, e quindi entra nelle sue grazie, diciamo, pur essendo un gaggi, entra nelle grazie di questo zingaro e di un clan, insomma, importante, e quindi conosce bene, insomma, la sua tribù, e poi viene a contatto con la madre, cioè questa figura così monumentale della madre di Savo. E volevo leggervi questa paginetta perché appunto è un espediente che la madre utilizza per imbrogliare i confini, praticamente per varcare i confini ma anche per imbrogliarli. Allora ci dice Blaise Cendrars: la madre, tornando dalla guerra, non potevo avere migliore occasione se non quella di conoscere quelle donne coraggiose che sono sempre sulla breccia e che, come i soldati al fronte, ignorano il senso, lo scopo delle loro peregrinazioni. Cammina o crepa è la parola d'ordine, e partire il verbo degli errabondi. Voler tracciare gli itinerari della madre è per me come sfogliare la Bibbia. Ogni tappa della roulotte fa immagine, e da tutte quelle immagini si libera un senso di profonda e misteriosa umanità, il che manca così spesso alle stampe classiche che decorano il Vecchio o il Nuovo Testamento. Era fuggita dunque con il suo primo marito, spingendo a braccia una pesante roulotte, una specie di capanna da pastore a due ruote, da Parigi fino alle sponde dell'Allier, dove fissò la sua casa mobile sul bordo di una strada dissestata vicino al fiume, all'ombra di una fila di pioppi che segnavano il limite tra due comuni, stando bene attenta a fissare una ruota del suo veicolo su uno dei due territori e l'altra sull'altro. Quindi a cavallo del regolamento che proibiva la sosta dei nomadi e al sicuro dall'intervento delle guardie campestri, perché lei non si era accampata in nessuna delle loro rispettive zone di sorveglianza, e infischiandosene dei decreti affissi, perché aveva una sola ruota su ciascun territorio comunale. Ed ecco a che genere di malizia e di astuzia bisogna ricorrere 100 volte al giorno per riuscire a vivere ai margini, cosa che sollecita straordinariamente l'immaginazione e il dono e la pratica dell'osservazione. Sviluppa l'istinto di rapina. Vivere la giornata riempie di spensieratezza. Ecco perché gli zingari sono allegri, saccheggiano, si danno al bracconaggio, portano via tutto quello che arraffano, mendicano con insistenza, ma se ne infischiano del risultato. Chiedono l'elemosina per avere l'aria di averne l'aria. Mentre le donne leggono la mano per spillare soldi e bianchi scudi, facendosi beffe del cliente e scoppiando a ridere allegramente. Tranne qualche rara eccezione, come la madre, le cui consultazioni erano serie e le predizioni si pagavano con una moneta d'oro. Stiamo anche ascoltando questa band italiana, dovrebbe essere della zona tra Vicenza, Treviso, insomma lì, e non è ben definita, perché questo che noi stiamo ascoltando è un CD promo di questa band, e Psycho Negatives, che successivamente al 2005, data di questo diciamo demo, hanno fatto un 7 pollici con mi sono preparato e non me li ricordo, lo dirò dopo. Ed ecco che, tanto per interrompere le dirette, l'altra band del 7 pollici di questi Psycho Negatives erano i No White Rag. We'll be right back. Ed eccoci in diretta di nuovo, a voce, in parole, anche da parte mia un saluto a tutti voi che ascoltate questa puntata di Zardis Magnetics di giovedì sera 6 marzo 2025. Allora, abbiamo passato la metà della trasmissione, siamo circa le 8:44, cioè dire 20:44 di questo giovedì sera. La scaletta prevede un intervento di quello che io avevo pensato come un percorso con varie deviazioni, che la sto prendendo molto alla larga, vi avviso, perché mi sono comunque appassionato queste figure, medaglioni di cui si dà sempre tutto per scontato, anche perché sono dell'Ottocento, si dice sono con la barba lunga, lì fanno venire la barba, anche solo evocarli, e quindi non ne parliamo più, mettiamoli via, l'anarchia non è questa, no? Comunque, una volta per tutte li ricordiamo invece in due o tre parole, con anche però in testa lo scopo è quello di arrivare a quel benedetto articolo di cui vi avevo accennato ormai un bel po' di settimane fa, che era stato pubblicato da Nigredo ed era una serie di appunti anonimi sull'idea di rivoluzione alla luce, insomma, di un concetto non relativo, ecco, di uscire dalla dialettica per cui che impone, diciamo, il sistema capitalista, per cui alla crisi succede la rivoluzione, poi non si sa che cosa succederà a questo, ma provare a pensare e poi mettere in pratica, e possibilmente allo stesso tempo, un'idea di rivoluzione in sé, ecco, e se è possibile questo. Quindi noi stiamo passando in rassegna così velocemente i presupposti di questo ragionamento, che sono, come avrete sentito le puntate scorse, insomma, e abbiamo parlato un po' di Godwin, poi abbiamo fatto una puntata con Proudhon. Oggi volevo veramente, senza fare cose enciclopediche, ma comunque ancora dire due parole partendo dalle opere di Mikhail Bakunin, indifferente, ecco. Prima però di questo, che lo faremo, ma insomma prima mettiamo un intermezzo musicale, saltiamo di palo in frasca, ma forse non proprio di palo in frasca, voglio dire, forse troveremo un nesso, oppure se non lo troviamo invitiamo anche chi è all'ascolto di trovarlo, faccelo sapere possibilmente, così ci dà una mano. Siccome sabato non è importante, non c'entra niente, diciamo, è solo un in memoriam, ecco, è scomparso l'ultimo elemento di quella band rock and roll statunitense degli anni 70 che si chiamavano New York Dolls, ecco, è stato l'ultimo di questi, il primo diciamo era Billy Mursia, ancora prima che incidessero il disco, se non sbaglio, nel 72, poi è seguito nel 91, ne abbiamo anche parlato, Johnny Thunders, subito dopo Jerry Nolan, negli anni più vicini a noi, mi sembra nel 19, se n'è andato anche Arthur Kane. 2021 mi sembra Sylvain, e adesso appunto scompare anche il cantante David Johansen, di malattia, chiaramente oltre a settantenne, non paragonabile agli altri elementi. Era questa band così che ha aperto il genere glam rock, cioè glam è anche insomma un glam stradaiolo, ecco, non quello solo leccato, però erano dei personaggi che occupavano insomma con la loro presenza ogni centimetro di spazio disponibile, con i loro allestimenti cosmetici, estetici, eccetera. Insomma, non era una cosa, sebbene appunto si presentasse in maniera selvatica, ecco, stradaiola, ripeto, musicalmente, per qualsiasi cosa questo voglia dire, la loro presenza scenica era tutt'altro che improvvisata. Insomma, c'era un grande attenzione al look più stravagante, ecco, e quindi direi che possiamo mettere questo brano dei New York Dolls, Personality Crisis, in memoria di David Johansen. Now you're trying to be Next on Don Kirshner's. Eccoci di nuovo qui. Ecco, quindi allora andiamo con Mikhail Bakunin. Cosa domanda il popolo? Nel 1862 il Kolokol ha risposto molto bene a questa domanda. Il popolo domanda la terra e la libertà, niente di più. Ma riflettere su cosa significano queste parole? Ma riflettete su cosa significano queste parole. Il popolo domanda la terra, tutta la terra, ciò che vuol dire rovinare, spossessare e annientare la nobiltà, e ai nostri giorni non solo la nobiltà, ma anche un'importante parte dei mercanti e dei culacchi che vengono dal popolo, che beneficiano di nuovi privilegi, che sono divenuti a loro volta grandi proprietari, non meno detestati dal popolo e per quanto possibile ancora più oppressori dei grandi proprietari d'altri tempi. Il popolo domanda la libertà, una libertà che sia veramente una, cioè piena, intera. La qualcosa significa che bisogna distruggere l'amministrazione e tutto l'esercito, che bisogna abolire lo Stato. Ora, senza Stato non vi sono sovrani possibili. E da là si arriva a questa conclusione che per fare qualcosa di serio e in grado di dare soddisfazione al popolo, l'imperatore e tutta la sua dinastia devono, insieme a tutto lo Stato, andare al diavolo. Ecco, questo era un intervento di Bakunin tratto dalla sua opera perché è in fondo. Ah sì, ecco, Le opere complete, volume sesto, Relazioni slave, è stato pubblicato a Catania dall'edizione di Anarchismo nel 1985. Ecco, l'opera, non entriamo nel com'è organizzata l'opera scritta di Bakunin. Lui interveniva, la sua attività era quella di fare l'agitatore, partecipò ai moti dell'848, ma noi partiamo però dalla sua esperienza, perché a noi ci interessa appunto il discorso rivoluzionario, la sua, il contesto in cui lui cresce da giovane è quella del Batosta, che subisce l'ambiente liberale di alcune avanguardie dell'impero russo, ecco, avanguardie come Ceto, in seguito al fatto che l'impiccagione di 5 decabristi nel 1826 mette fine appunto a questo specie di movimento che potremmo tradurre in italiano come la carboneria. Ecco, erano delle avanguardie di classe, dell'esercito in questo caso, ufficiali, comunque avevano raggiunto una consapevolezza che occorreva cambiare la realtà sociale della Russia, che era troppo arretrata, era veramente troppo oscurantista, repressiva per la realtà di quello che era invece l'Europa occidentale. E finì male, appunto, lo zar inasprì tutta una serie di provvedimenti e per un bel po' di anni appunto calò una cappa di restaurazione molto molto spinta, ecco, per la Russia, per la realtà russa. Da questa esperienza quindi dei moti decabristi, dove appunto lui frequenta degli ambienti appunto con cui aveva a che fare suo padre, poi lui emigra Bakunin emigra negli anni 40 in in Europa centro-occidentale, quindi Berlino, poi Zurigo e Parigi. Conosce gli esponenti della sinistra hegeliana, in particolare apprezza, ecco, le quelle che erano le così le prospettive che di un rivoluzionarismo ardente e immediato che aveva proposto Weitling, quindi rivolgersi anche a ceti più ai margini, cosiddetti anche devianti, per appunto far leva su questi ceti per raggiungere il mutamento. Chiaramente qui è implicito, ma io lo esplicito, c'è sempre sottinteso il modello di rivoluzione per questi così per queste figure. Avevano un modello, era quello della rivoluzione francese del 1789, quindi dove appunto si era raggiunto cioè il mutamento sociale era stato promosso, messo in piedi dai giacobini, quindi da un ceto molto preciso della società, che insomma sul quale non mi dilungo, ma soprattutto come era andata a finire la questione insomma a Napoleone Bonaparte. Quindi questo era quello che era il loro orizzonte, no? Di questi esponenti qui della prima metà dell'Ottocento. Poi era subita appunto la restaurazione, poi c'erano stati i moti del 30, quindi anche qua faccio questi excursus storici così per così anche avere un'idea del contesto. C'era un negli anni 40, appunto, nella fattispecie, appunto, di cui stiamo parlando, di Bakunin, c'era anche il discredito che lui aveva per la borghesia, avendo davanti, insomma, l'esempio di questo Guizot, che era il primo ministro di Luigi Filippo, del re, diciamo, dei borghesi, della monarchia, appunto, restaurata francese. Quindi tutta una serie di corruzione, di scandali, di immobilismo, che appunto quindi era, diciamo, una cosa assodata che per loro, per questi esponenti come Bakunin, ecco, questa componente quindi di scarso credito per la borghesia e per i giacobini, e comunque di fare una proposta avanguardista non era più il caso, appunto, visti come erano andate a finire le precedenti esperienze. This is another song that I won't explain. I'm gonna get so many notes from the cancer later. Explain your songs. Like a set list. This is the set list. I just did it in my way. This is actually really fun. It took 16 seasons for the street to get planted. Do the same if I found the dirt on the scale. It's so underwhelming. The waiting, not even watering all of the roots. And I had a mission, it got buried. Better to have a ladder or a basement key. Gotta take stock of the inventory that I need. You can go on without me, I'll pack my bags at my own speed. Mm-hmm. slid into and walk away. Will I remember this day that I have missed? It got buried in a past life. Did I let go of the narrative? Eccoci di nuovo qui in voce, Zardins Magnetics di questa sera. Stiamo ancora, vogliamo andare avanti con Bakunin e l'idea di rivoluzione. Ovviamente lui non parlava di idea, cioè non è ovviamente, ma lui non parlava di idea, lui parlava delle sue cose, noi ne estrapoliamo la sua proposta, ecco, più che idea. Una cosa importante che secondo me della sua analisi è questa qui del poi, cioè l'anticipo, in realtà c'è un altro punto che è il panslavismo rivoluzionario, ma io adesso volevo parlare della cosa che io ritengo importante, è che lui individua nella logica di potenza una legge di funzionamento degli stati, degli stati ovviamente moderni, perché nel mettere a fuoco la realtà sociale, diciamo, russa dei contadini, dei marginali, dei relitti russi, insomma, che erano la stragrande maggioranza del popolo, nelle sue esperienze di rivoluzione dei secoli passati contro appunto l'oppressione dello zar, e per arrivare appunto però alla realtà statuale russa del sua contemporanea, quindi della seconda metà dell'Ottocento, individua in questo principio di potenza. Che cos'è appunto il principio di potenza dello Stato? È che lo Stato ha per, come diciamo, interlocutore, ma meglio detto come nemico, gli altri Stati. Ma questa questione del voler prevalere sugli altri Stati gli impone di a sua volta dover diciamo doversi attivare contro il nemico interno suo interno, quindi da questo fatto consegue che la logica di violenza e di morte, quindi quella della guerra tra stati nemici, intacca anche i rapporti dello Stato con i suoi cittadini. Non solo, ma i cittadini sono qualcosa di meno di esseri umani, perché appunto per diventare cittadini hanno perso una qualità universale che era quella di essere umani, di essere parte di un'umanità in questo senso. Quindi ecco, la negazione dell'umanità diventa appunto la vita individuale diventa un cimitero, appunto, perché mentre senza Stato c'era l'universalità dell'etica, adesso c'è una parzialità dell'istituzione statuale. Ogni istituzione appunto è una realtà fissata una volta per tutte, quindi i sudditi dello Stato, come già detto, cessano di essere umani per essere solo cittadini. Non solo, ma quindi anche verso gli stranieri si può esercitare la più feroce disumanità. In particolare, ecco un passo: lo Stato rompe la solidarietà universale di tutti gli uomini sulla terra e non ne associa che una parte, solo al fine di distruggere, conquistare e asservire tutto il resto. Con la propria protezione esso tutela solo i suoi cittadini, riconosce il diritto umano, l'umanità, la civiltà solo entro i suoi confini, non riconoscendo alcun diritto umano al di fuori di se stesso, si arroga logicamente quello della più feroce disumanità contro tutte le popolazioni straniere che può saccheggiare, sterminare, asservire a piacimento. Ecco, queste sono parole appunto del 1867, ma come vedete è anche contro il senso comune, diciamo, nostro del 2025, che direbbe: ah sì, l'anarchismo, quello storico, questione di superata, questione appunto marginale, questione però sono parole invece vive, attuali, perché quella realtà lì che lui aveva individuato non è mutata. Lui l'aveva avuto un'intuizione, poi è stata ricoperta di altre cose, tutta l'analisi di questo esponente, ma in particolare di quella dottrina, chiamiamola così, che è l'anarchismo, è stata appunto in vari modi considerata solo parziale o sconfitta in certi momenti, ma vedete che appunto alcuni risultati non sono per niente né superati né sconfitti. Ecco, arriviamo alla conclusione, perché siamo un po' dilungati. Io direi che ci sarebbero cose da aggiungere, ma per questa puntata così direi che può bastare. Adesso non vi ho parlato del panslavismo, ma ci sarà, lo metteremo in qualche maniera, perché comunque torna fuori anche da altri autori. Così lo anticipo, non ho ancora ben messo insomma in piedi la roba, però penso che ci sarà una deviazione a questo punto su un autore non esponente dell'anarchismo, ma comunque che rientra pieno diritto nella contestazione della realtà, insomma, del presente, ecco, nella contestazione del presente, e che è Kierkegaard. ma lo vedremo, insomma, dai, più avanti nelle prossime puntate. Per stasera basta così. E ecco, già che ci siamo, anche presentiamo un po' i brani che stiamo ascoltando in sottofondo, ma che abbiamo anche ascoltato prima dell'intervento. Sono tutti estrapolati da una compilation che è uscita meno di 2 settimane fa negli Stati Uniti, che si chiama Disastrous Transgenderism, e che appunto è una compilation creata da e per trans punk, e che praticamente è tutto folk club scusate, folk punk il genere musicale, ed è praticamente una compilation benefit che il ricavato va alla Trans Lifeline Project. Trieste, il 9 marzo 1985. Via Giulia. Pedro esce di casa, dall'appartamento al terzo piano. Una volta giù, decide di rientrare. Appostati all'esterno ci sono quattro sicari dello Stato italiano. Sono Nunzio Maurizio Romano, agente del SISDE, che ha il compito di riconoscerlo, Giuseppe Guidi, vice ispettore della Digos, Maurizio Bensa e Mario Passanisi, agenti della Digos di Trieste. Il Romano, il Guidi e il Passanisi entrano nello stabile e si mettono in agguato nel sottoscala. Quando Pedro discende le scale, il Romano gli si para davanti e spara due colpi calibro 38 a meno di mezzo metro di distanza, che lo colpiscono ai polmoni. Immediato il fuoco incrociato degli altri due poliziotti killer che colpiscono Pedro con pallottole calibro 9 alla spalla e alla gamba. Nel piccolo atrio si conteranno successivamente i segni di almeno una dozzina di colpi. Pedro fa appello per l'ultima volta alla sua straordinaria forza di volontà, uscendo in strada, impedendo così che tutto si svolga senza testimoni. Esce, ferito mortalmente, parecchi passanti lo sentono gridare: «Mi vogliono ammazzare, mi vogliono ammazzare!» Il Bensa, rimasto all'esterno dello stabile, appena vede Pedro, gli spara alle spalle. Pedro si accascia, sanguinante, dopo pochi metri. Il Passanisi lo ammanetta. Trasportato in ospedale con notevole ritardo, muore verso le 11:50. Fine. Niente, ecco, no, volevo solo dire per concludere che appunto abbiamo ricordato questi ultimi assassini, insomma gli ultimi minuti, gli ultimi momenti di vita di, appunto, di Pedro, militante, sì, militante comunista, attivo insomma nella Padova dell'autonomia, poi costretto, insomma lo dico adesso velocemente, costretto all'esilio, insomma in seguito al 7 aprile. E, a me mi è rimasto impresso, stavo cercando ma non l'ho trovata, una volta Fortini ne parlò, insomma ne scrisse, e la frase appunto mi pare fosse quella: mamma mia, mi ammazzano, una roba del genere. Lui scendendo le scale, dopo la prima pallottola, ha cercato di attirare l'attenzione dei passanti, insomma, perché lo stavano ammazzando. E, insomma, un suo ultimo appello all'umanità, non so, insomma, qualcuno che lo aiutasse per quello che stava succedendo. Comunque, con questo spirito vogliamo dire che due appuntamenti ci saranno a Trieste per insomma ricordare questo fatto e questa, insomma, importante momento di cui ricorre il quarantennale, e noi non dimentichiamo, ovviamente. Quindi sono due iniziative promosse da Antitesi Rivista, e la prima era stasera, è già finita, insomma, comunque era alle 18, una presentazione del quaderno su Pedro a Bibitando e Magnando, a Via dell'Istria, a Trieste. Invece questa domenica 9 marzo alle 15:30 un presidio proprio sul luogo in cui è successo il fatto, in via Giulia 39 a Trieste. Ci sarà appunto questo momento di insomma per rendere memoria a questo compagno che fu assassinato dai corpi polizieschi dello Stato italiano. Terrorhawks, stay on this channel. This is an emergency. It's heading for Earth and it's alien. Get back to space, Hawk Hero. And then... we've lost contact with Space Hawk. For some reason, they didn't open fire. Damage control unit to communication section. Immediate repairs. Launching Hawkwing now. Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing, Hawkwing. Hawkwing. Hawkwing. Einstein. Hero, Mike, glad to hear you. All repairs complete. Spacehawk is fully operational. Great. We may need you on this one. This is a 1050. You have beaten me. What in space was that? Voi tornerò a capire un po', poi continui a far qualcosa, vista sociologi, vista sociologi. Bene, e allora sulle note di questa band, che è una band che si chiamano Lilliput Put, e comunque fanno parte di una compilation uscita grazie alla Downtown Recordings, che comunque non dovrei sbagliarmi, ma sono tutte state registrate i brani in uno spazio che esisteva a Novo Mesto. Dopo vari, insomma, alcune band sono state registrate ed è uscito questo CD che si chiama Sokol ne Jezise, comunque in Slovenia. Va bene, a parte quello, devo dirvi che siamo anche al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30, oggi diretta come sempre 6 marzo 2025, e il programma funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Come di consueto vi leggo i nostri contatti. Se volete scriverci in forma elettronica, dovete scrivere nella mail liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Poi ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, vi saluto, salutiamo tutti, l'appuntamento è il prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolta sulla web radio dalle ore 17 di domani venerdì, che è su Radiazione, mentre salutiamo anche chi ci ascolta su Radio Eustachio domani mattina, sempre venerdì, dalle ore 11. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.